No Pinakia. Yeah. ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina mi sono assato e ho trovato l'invasore. Partigiano, dammi via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, dammi via, che mi sento di morire. La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Partigiano, dammi via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, dammi via, che mi sento di morire. Io voglio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io voglio da partigiano, tu mi devi servire. La mattina sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.